Prima guardia. Venga, nome e indirizzo. Bloom. Non me lo ricordo in questo momento. Ah, sì, si leva il migliore dei cappelli, salutando. Dottor Bloom, Leopold, chirurgo dentista. Avete certo sentito nominare von Blum Pascià? Milioni e milioni. Donnerwetter, mezza Austria è sua. L'Egitto, cugini. Prima guardia. Le prove. Un biglietto cade dal nastro di cuoio interno del cappello di Blum. Blum, col fez rosso, abito di cerimonia da cadì, fascia verde alla vita e distintivo falso della Legion d'Onore. Raccoglie in fretta il biglietto e lo porge. Permettete, il mio club è il Junior Army and Navy. Procuratori John Henry Menton, il socio. 27 Bachelor's Walk. Prima guardia. Legge. Henry Flower, senza fissa dimora, stazionamento abusivo e curiosità morbosa. Seconda guardia. Un alibi. Siete avvertito. Bloom estrae dal taschino un fiore giallo gualcito. Questo è il fiore in questione. Me l'ha dato un tale, non so come si chiami, plausibilmente. Conoscete quel vecchio scherzo, la semiramide? Bloom, cambiamento del nome. Virag. Mormora in privato e in confidenza. Siamo fidanzati, vedi, sergente? C'è di mezzo una signora. Complicazioni sentimentali. Dà una spallata cordiale alla seconda guardia. Al diavolo tutto. È il nostro modo di fare, noi della Marina. È colpa dell'uniforme. Si volge gravemente alla prima guardia. Però, naturalmente, ci sono anche delle Waterloo, qualche volta. Fate una capatina un giorno o l'altro. Si berrà un bicchiere di vecchia Borgogna. Alla seconda guardia, allegramente. Gliela presenterò, ispettore. È accessibile e le fa quel servizio in un batter di coda. Un oscuro volto mercurizzato appare, guidando una figura velata. Il mercurio scuro. È ricercato dal governo. È stato sbattuto fuori dell'esercito. Marta, con un velo spesso. Uno scapolare cremisi attorno al collo, una copia dell'Irish Times in mano, in tono di rimprovero, indicandolo con un dito. Harry! Leopold! Leopold! Lionel, tu sparisti! Lava il mio onore! Prima guardia, severamente. Venga al commissariato. Bloom, impaurito, si mette il cappello, arretra. E poi, con la mano sul cuore, il gomito ad angolo retto, fa il segno massonico di difesa e di riconoscimento. No, no, venerabile maestro, luce d'amore, errore di persona. Il Corriere di Lione, Les Urques du Bosque. Lei ricorda il caso dei fratelli Childs? Noi studenti di medicina, steso a terra esanime con un colpo d'accetta, sono accusato ingiustamente. Meglio che sfugga un reo piuttosto che 99 siano condannati ingiustamente. Marta, singhiozzando dietro il velo. Rottura di promessa di matrimonio. Il mio vero nome è Peggy Griffin. Mi aveva scritto d'essere infelice. Lo dirò a mio fratello, terzino della squadra di rugby di Bective. Seduttore senza cuore che non è altro. Bloom, coprendosi la bocca con una mano. È ubriaca. Costei è ebra, mormora vagamente la parola d'ordine di Efraim. She brought that. Seconda guardia, con le lacrime agli occhi, a Bloom. Lei dovrebbe assolutamente vergognarsi. Bloom. Signori della giuria, permettetemi di spiegare. È una vera e propria montatura. Sono un incompreso. Hanno fatto di me un capro espiatorio. Sono un uomo sposato e rispettabile, senza una macchia sulla reputazione. Abito a Eccles Street, mia moglie. Sono figlia di un valoroso ufficiale superiore, un prode ed eminente uomo d'onore. Come si chiama? Il maggior generale Brian Tweedy. Uno dei combattenti di Britannia che hanno validamente coadiuvato alle nostre vittorie. Si è guadagnato il grado per l'eroica difesa di Rorker's Drift. Prima guardia. Reggimento. Bloom si volta verso la galleria. Il Royal Dublin, ragazzi miei, il sale della terra, noto in tutto il mondo. Mi sembra di veder lì tra voi qualche vecchio compagno d'armi, RDF, insieme con la nostra polizia metropolitana, custode dei nostri focolari, i ragazzi più valorosi e il più bel corpo militare, quanto a fisico, che ci sia al servizio del nostro sovrano. Una voce. Volta Gabbana! Via i boeri! Chi ha fischiato Joe Chamberlain? Bloom, una mano sulla spalla della prima guardia. Anche il mio vecchio era giudice di pace. Sono un inglese per la pelle come lei, signore. Ho combattuto sotto la bandiera per il re e per la patria nella guerra dei distratti agli ordini del generale Gough nel parco e fui messo fuori combattimento a Spion Kop e a Bloemfontein. Fui citato nei comunicati speciali. Ho fatto tutto ciò che poteva fare un uomo bianco. Con emozione trattenuta. Jim Bludso. Tenere la prua contro la riva. Prima guardia. Professione o mestiere? Bloom. Beh, mi occupo di letteratura. Letterato e giornalista. A dire il vero, stiamo per pubblicare una raccolta di racconti a premio, di cui sono l'ideatore. Qualcosa che rappresenta un indirizzo del tutto nuovo. Ho rapporti con la stampa britannica e irlandese. Se lei fa una telefonata. Viene avanti a scatti Miles Crawford, penna d'oca tra i denti. Il suo becco scarlatto riluce entro l'aureola della paglietta. Dondola con una mano una resta di cipolle spagnole e tiene con l'altra mano un ricevitore telefonico all'orecchio. Miles Crawford, coi bargigli frementi. Pronto? 7784? Pronto? Urinale del cittadino e nettaculo settimanale. Paralizzare l'Europa. Chi parla? Blu come? Chi scrive? È Bloom? Mister Philip Beaufoy, pallido in viso, nel banco dei testimoni, in un impeccabile abito da mattina, taschino con punta di fazzoletto in evidenza, pantaloni color lavanda con la piega e scarpe di coppale. Porta una gran borsa d'ufficio con scritto sopra I colpi da maestro di Matcham. Beaufoy, voce strascicata. No, lei non lo è. Neanche da lontano, ve lo dico io. Non vedo come possa esserlo, ecco tutto. Nessun vero signore, nessuno che ne abbia sia pure i più rudimentali elementi. Si abbasserebbe ad azioni così peculiarmente ripugnanti. Uno di quelli, signor Presidente, un plagiaro, un mellifluo ipocrita sotto vesti di letterato. È evidentissimo che con la bassezza che gli è propria ha saccheggiato alcuni dei miei libri di gran successo. Materia davvero ricchissima, un gioiello perfetto, le cui scene d'amore sono al di sotto di ogni sospetto. I libri di Beaufoy, romanzi d'amore e del bel mondo, che a vostro onore sono certamente familiari, sono popolari in tutto il regno. Bloom mormora con cupa mitezza da cane bastonato. Ah, quel brano sulla strega ridente, la mano nella mano. Io farei obiezione, se è lecito. Beaufoy, labbro arricciato, sorride alla corte con aria di sufficienza. Asino ridicolo che non è altro. Lei è troppo bestialmente assurdo perché io possa trovar parole per definirla. Non è il caso davvero che lei si dia pena a questo riguardo? È qui presente il mio rappresentante letterario, Mr. J.B. Pinker. Voglio sperare, signor Presidente, che avremo la consueta indennità dovuta ai testimoni, vero? Siamo in considerevoli difficoltà economiche per questo scombinato giornalastro, questa cornacchia di Reims, che non è stato neppure all'università. Bloom, indistintamente. L'università della vita. Cattiva letteratura. Beaufoy grida. È una vergognosa, ignobile menzogna che dimostra il marciume morale di questo individuo. Porge la cartella dei documenti. Abbiamo qui prove schiaccianti, il corpus delicti, signor Presidente. un esempio della mia opera più matura, sfigurato dal marchio della bestia. Una voce dalla galleria. Mosè, Mosè, dei Giudei il re, col Daily News, pulito il culo sé. Bloom, coraggiosamente. Conto esagerato. Boffoe, volgare cialtrone. Dovrebbero tuffarlo in un letamaio, farabutto che non è altro, alla corte. Orbene, considerate un po' la vita privata di quest'uomo. Conduce una quadruplice esistenza. Angelo per la strada e diavolo in casa. Non sta bene parlarne in presenza di signore. Il più grande furfante dell'epoca. Bloom alla corte. È lui che è celibe. Com'è che? Prima guardia. Procedimento d'ufficio contro Bloom. Chiamate la teste Driscoll. L'usciere. Mary Driscoll, sguattera. Mary Driscoll, sciatta servetta, si fa avanti. Ha una secchia infilata al braccio e uno spazzolone in mano. Seconda guardia. Un'altra. Appartiene a quella classe di infelici. Mary Driscoll, indignata. Non sono una di quelle. Ho una buona reputazione e sono stata 4 mesi di seguito nel mio ultimo servizio. Era una posizione coi fiocchi. 6 sterline all'anno, le gratifiche e il venerdì di libertà. E sono stata costretta a licenziarmi per il suo modo di comportarsi. Prima guardia, di che cosa lo accusa? Mary Driscoll mi ha fatto una certa proposta, ma io ho rispetto di me stessa, per povera che sia. Bloom, in giacca da casa di pettinato, pantaloni di flanella, pantofole senza tacco, barba lunga, capelli un po' scarmigliati, a bassa voce. Ti ho trattata in guanti bianchi. Ti ho dato dei ricordini, belle giarrettiere verde smeraldo, molto al di sopra della tua condizione. Incautamente ho preso le tue difese quando fosti accusata di rubacchiare. A tutto c'è un limite. Gioca senza barare. Mary Driscoll, eccitata. Quanto è vero che Dio mi vede in questo momento, non ho mai toccato una di quelle ostriche. Prima guardia, di quale infrazione si tratta? È successo qualcosa? Mary Driscoll, mi sorprese sul retro del domicilio, vostro onore, mentre la padrona la mattina era fuori a far compere per chiedermi uno spillo di sicurezza. Mi tenne stretta e di conseguenza ne risultai illividita in 4 punti e per 2 volte manomisi articoli del mio abbigliamento. Bloom, lei reagì con vie di fatto. Mary Driscoll, sprezzante, avevo più rispetto per lo spazzolone. Avevo. Gli feci delle rimostranze, signor Presidente, e lui disse: Non lo andare a raccontare. Risata generale. George Fottrell, usciere di tribunale, con voce sonante. Silenzio nell'aula! L'imputato farà ora una dichiarazione fasulla. Bloom, dichiarandosi innocente, con una ninfea in piena fioritura in mano, comincia un lungo discorso inintellegibile. Avrebbero sentito quel che aveva da dire l'avvocato. Nella sua commovente arringa ai giurati. Era finita per lui, ma per quanto marchiato come una pecora nera, se così poteva esprimersi, egli intendeva emendarsi, riscattare il ricordo del passato in un modo puramente sororale e ritornare alla natura come animale puramente domestico. Nato di 7 mesi, era stato allevato con sollecitudine e tirato su da un genitore anziano malato cronico. C'erano forse state le debolezze di un padre sconsigliato, ma egli voleva or voltar pagina e adesso, che alla fin fine si trovava di fronte alla gogna, fare vita di casa, giunto ormai alla sera dei suoi giorni, permeata dall'ambiente affettuoso del palpitante seno della sua famiglia. Acclimatato britanno, aveva avuto in quelle ore serotine d'estate, dal predellino d'una locomotiva delle ferrovie della circonvallazione, mentre la pioggia stava lì lì per cadere, dei barlumi, per così dire, attraverso le finestre di famiglioli amorose nella città e nel distretto urbano di Dublino, di scene veramente rustiche di felicità della terra promessa, con carta da parati Dockrell a 1,9 la dozzina, innocenti marmocchi britannici che balbettavano preghiere al Bambin Gesù, studiosi giovinetti alle prese coi loro compiti, o giovinette modello che suonavano il pianoforte, oppur tutti che recitavano con fervore il rosario in famiglia attorno al ceppo di Natale, scoppiettante, mentre nei vicoletti e nei verdi sentieri le ragazzette coi loro belli passeggiavano al suono melodioso della fisarmonica da bocca Britannia, a risonanza d'organo, armatura metallica con quattro tasti reali, 12 soffietti, svenduta, la miglior occasione che mai. Nuove risate, barbuglia incoerentemente. I cronisti reclamano perché non sentono. Calligrafo e stenografo, senza alzar gli occhi dai taccuini, slacciategli le scarpe. Il professor McHugh dal tavolo della stampa tossisce e dice a voce alta: Sputala fuori, amico! Cacciala fuori un pezzetto dopo l'altro! Il contraddittorio prosegue riguardo a Bloom e alla secchia, una gran secchia. Bloom in persona, mal di pancia, in Beaver Street, strizzoni, sì, e forti, una secchia da imbianchino, a forza di camminare irrigidito, sofferto pene indicibili, angoscia mortale. Verso mezzogiorno, amore o borgogna? Sì, un po' di spinaci, momento cruciale. Non aveva guardato nella secchia, nessuno. Un gran minestrone, non del tutto, un numero arretrato di Tit-Bits. Clamori e fischi. Bloom, in una marsina a brandelli macchiata di tempera, il tubino ammaccato a sghimbescio sulla testa, una striscia di cerotto sul naso, parla in modo inudibile.